In differita, da quella parte di cervello, va ora in onda Opencast Alpha. Opencast Alpha, puntata numero 10. Opencast Alpha X. Scusa? Opencast Alpha X. Grazie. E che puntata è? È la 10. È la 10. Numero 10, si festeggia. 10. Si festeggia di brutto, ma dobbiamo iniziare con una piccola nota polemica. No, subito. No. Sembrava quasi, sembrava più drammatica. Dobbiamo farlo, no, perché settimana scorsa ci siamo stati accusati di essere estremamente sessisti. Attenzione, vorrei sottolineare che ci siamo stati accusati. Soprattutto io. E allora adesso dovrò porgere le mie scuse all'associazione Donne Debian. Bene. Adesso guarda che ci verrà fuori un pieno dopo questo. Lo so. Dopo questa vorrei far notare. Io mi dissocio comunque. Anch'io mi dissocio soprattutto dall'abbigliamento di Davide di questa sera. Sì, perché mi sembra che le ciabatte. Abbigliamento di Davide. Partiamo dal basso. Allora, il modello dal basso, no, io partirei dall'alto. Andiamo dall'alto. Dall'alto. Il modello indossa una finta polo, finta camicia, è una finta maglietta con sotto una finta camicia. Sì. Con colore grigio con righine azzurrine. Sì, dal dubbio gusto. Dal dubbio gusto, effettivamente, con il taschino anche pieno di fazzoletto, immagino. Proprio da Lord. No, no, cioè, non Lord inglese, proprio Lord. Che, sì, proprio esatto. Lord. Pantaloni, diciamo così, da senape. Pantalone senape. Da spiaggia, direi. Sì, sì, estremamente. Da spiaggia e ai piedi le ciabatte infradito. Calosce, carpette topografiche e trombone da brigante calabrese. Ecco qua. Ed ecco, era l'abbigliamento di Davide di questa sera. La prossima volta passeremo all'abbigliamento di Fabio. Passo tutto il giorno in ufficio, io sclero. C'hai ragione. Ma tu vai così in ufficio, vero? Sì, no, non posso. Ah, non puoi? No, non posso. La mattina si alza presto, tutto il giorno in ufficio e poi la sera si veste a cazzo. Signori, la sera si veste a cazzo e allora, per rimanere in ambito... Cazzo. Sì. Sito? Sito... Sito? Primo dominio, cioè punto primo sito col punto XXX. L'abbiamo registrato noi, noi non volevamo dire, però l'abbiamo fatto noi. Sì, l'abbiamo registrato per festeggiare Opencast numero 10. www.opencastx.xxx. Ma così è 30. 30. È il, dobbiamo aspettare ancora un po'. È il miglior sito internet per chi ha avuto una storia d'amore travagliata che è finita. XXX. E andiamo avanti, anzi cominciamo con le news, io direi. Scaldiamo i motori perché anche insieme a noi, chi altro sta scaldando i motori? Perché anche insieme a noi, cioè veramente queste frasi così campate caso, in aria. Come ti frasi tieni le frasi a caso, noi, quindi perdono. Perché noi abbiamo anche una preparazione dietro questo programma, sì, voi pensate di no. Attenta. Ci sono 10 persone che lavorano. Puntigliosa, oserei dire. Notizie. Esatto, io ringrazierei tutti in redazione. Grazie. Mimo che fa per tre. Un saluto alla redazione a Bangkok, grazie. Esatto. Redazione e partiamo. Abbiamo l'outsourcing anche qua. Noi ci occupiamo solo del core business. Quello che mi ha chiamato ieri, io telefono per... Era lui e tu gli hai messo giù e io non capivo. Io telefono. Io invece non ho capito cosa volevano vendere. Io invece dalle news adesso. Vai. Da news. E partiamo con una news. Attenzione signori e signori, parliamo di Chrome OS, Operating System. A quanto pare potrebbe essere presentato da Google a maggio, tra il 10 e l'11 forse. Boh, non si ci crede nessuno. Forse anche loro vogliono usare il 10, l'ex... Google OS X sarebbe un po' troppo. OS X. SSX sarà da qui, da il cui sito. XXX esatto. OS X. Google OS X. Google OS, sistema operativo tutto online, ne avrete sentito parlare. In pratica, a quanto pare, si tratterà di una sorta di browser internet. Dovrebbe essere un browser, esatto. Più che una sorta. Sì, più che una? Una sorta. Sorti. Ecco. È un'altra cosa. Più che una sorta, ecco, si basa essenzialmente sul browser web e sul cloud computing. In pratica, i vari computer forniscono l'elaborazione per chi utile, per l'utilizzatore. Cioè, insomma, cioè praticamente non installi niente, ma usi solo applicazioni via web. Se non usi la potenza Google di calcolo del tuo calcolatore, probabilmente la userà qualcun altro, giusto? No, semplicemente usi le applicazioni su un server remoto. Quindi il server remoto ci pensa lui. Esatto. Avrà 8,2 gigawatt, gigahertz. Esatto. gigawatt di potenza. Non so se vi capita ogni tanto, quando accedete a Google, no, per Gmail, sì? C'è scritto, no, quanto spazio è a disposizione. A disposizione. No? E continua ad aumentare. Sì. Io credo che sia un buco nero. Sì, è qualcosa che un giorno esploderà. Sì. Le email vengono indirizzate in dev null. Ma infatti le mie mail scompaiono alle volte. Cioè, ma è normale. Anche se ho acceso una lampada una volta e la luce è stata catturata dalla Gmail. A parte che con quello che scrivi te per le mail. Cioè, dovremmo metterle comunque qualche giorno sul sito, pubblicare le mie mail. Sì, assolutamente, come sì. Quella di stasera, ragazzi, ho un'idea per fare soldi. Diciamo le cose come tu hai scritto così oggi, poi allora, stasera sei arrivato in ritardo, io ho detto lo hanno arrestato. Ho detto ragazzi c'ho un'idea che facciamo i soldi, perché era una citazione di un brano molto famoso, possiamo anche dirlo. Sì, certo. Era Storia di un bell'imbusto di Le storie tese. Pensavo, e noi consigliamo a tutti di acquistare il CD, di sentirlo, di fare quello che vi pare. Sentite soprattutto la parte finale. Io non ho visto niente, sono qua solo perché mi piace. Opencast Alpha, esatto. Puntata numero 10. quindi per concludere, niente, vediamo un po' che succede. Vogliamo fare dei commenti a freddo? Ce la faremo a utilizzarlo in Italia con la banda che abbiamo? Non lo so. Allora, ma vogliamo utilizzarlo completamente? A me fa un po' paura come cosa. Però cioè la banda, poi se sei in giro in mobilità, cosa ti attacchi? Adesso ci cellulare. Guarda, Vodafone ha tirato fuori connettività a 48 Mbps via rete UMTS e dopo ci colleghiamo col tecnico Vodafone. TC pari in pass. Questo è pari Vodafone, pass, non lo so pari se... in pampù, eccoti qua. Ma chi lo sa se la navigazione allora, a 48 bene, megabit avanti, ce la piacere, farà. Ma rimaniamo comunque in tema Google. rimaniamo perché Google sta studiando sto bel nuovo sistema operativo, bla bla bla bla bla bla, bla, ma si sta anche difendendo dall'accusa rivoltagli da due società di cellulari, di dove non lo so esattamente, nome NNH Corp e l'altra è DAUM Communication Corp, cioè saranno italiane? Ma producono no, hardware? Hardware. Ma credo l'NH sì. Non sono quelli che fanno i cellulari Fashion Collection che fanno la pubblicità sulle reti? No, quello è NG. Ah, ok. Non sono quelli, quelli che puoi usare contemporaneamente 8 SIM? 8 SIM, no. Questa qui è un'altra cosa, che cioè è roba della Corea del Sud. Ah. Perché in Corea del Sud, voi non lo sapete, ma io lo dico però, Microsoft va a garganelle proprio, no? Cioè. Sì, e il motore di ricerca Bing funziona di brutto, perché, solo loro riescono a scrivere robe per Bing. E Google è stata accusata di, diciamo, fare un po' di ostruzionismo col suo sistema operativo Android per quando si fanno ricerche con altri motori di ricerca. Ah, perché Google ovviamente spinge molto su Android. Android, e con che motore di ricerca? Google, Android... Dai, che so che ce la puoi fare. Che motore di ricerca usa? Dai! Google usa Google? Mamma mia, eh? A Google usa Google, ma che storia! L'ho mandato a scuola... Virgilio oppure Alta Vista? Alta Vista. Secondo me usava Alter Vista. Alter Vista. Sì, anche sai intervista. Che cosa si trovava con quei siti lì? Comunque, adesso vedremo cosa succederà. Peccato, devo dire la verità, peccato. Però la cosa strana è che è un sistema operativo libero. Cioè, questi qui si lamentano che non riescono a cambiare un browser di ricerca. Mi sembra un po' strana come cosa. Cioè, è come dire fammelo perché io non c'ho voglia. Ma tu non me lo fai. E questo è chiaro, direi. Questo passaggio era proprio chiarissimo. Fallo. Make it, make, make. Cosa facciamo? Facciamo un make su un brano? Ma direi che a questo punto della serata... Cos'è che abbiamo ascoltato? All'inizio, vuoi sapere cosa abbiamo ascoltato all'inizio? Attenzione. Diciamo le cose come stanno, va eh. Bene. Allora, il brano di apertura si intitolava Standing by the Meaning e è un brano dei Fly Paper for Freaks. No, guarda che ti sei confuso, sono le budella al vento quelle. Sì, le abbiamo rinominate così, perché era troppo difficile il numero originale. Ci sta dentro proprio budella al vento, pensateci. Ci abbiamo pensato. Ah, bene. No, ci stavamo pensando. Quindi direi che no. Come no? Budella al vento. Io non mi trovo d'accordo. Perché? Io non mi trovo. Lo so. Io mi sono perso. Da un pezzo. Mi sono perso, direi. Quindi com'è? Abbiamo smesso di cercarti. Di lasciarlo alla sua perdizione, alla sua perditudine. Perdisciti. Perdo, mi sto perdendo. Esatto, aspetta. Si è perso. E direi di partire col secondo brano scelto da me su Opencast Alpha. Grazie. Sì, questo l'ha scelto lui. È incredibile. Non si direbbe ascoltandolo, ma l'ha scelto lui. Scusa, se prendi una mentina. Sentite che brano che ha scelto. E se l'ha scelto solo uno con le infradito, poteva scegliere un pezzo. Allora, così. È un pezzone. Let's go. Es el eterno alivio el que calma las cosas, pues se las ve pasar y recoge sus líneas. Recogido en la estación 8. faccenda. No sé cuándo pare mi reloj. Quiero que sea contigo, solo contigo yo me siento, pero que solo me consigo, solo con tu aliento yo me voy. Quiero que sea contigo, si sigo sin tu amor no sé qué va a suceder. Mírame mamita, yo voy a desfallecer. Contigo. Es mi momento para hacer, pero solo contigo, para sentirme vivo en todo. Pero que vivir. Sea contigo, y si la dicha de mi corazón, pero solo vivir. Contigo, mi mamita ya no puedo. Pero que vivir. Sea contigo, cuando aparece el equilibrio, pero que solo contigo, chiquitita es de corazón. Pero que me sea contigo, alejate un poquito que no pero puedo solo soportar que estar aquí a tu lado a mí me va a desmayar. Yo no quiero pasar el resto de mi vida si no es contigo. Questo era il brano dell'estate che è stato scelto dall'uomo con le infradito. Siamo su Opencast, è la puntata numero 10, un traguardo importante che abbiamo raggiunto grazie al vostro supporto. Ma senti che odoraccio che c'è nell'aria. Sai cos'è? Cos'è? Ho l'iPad, per cui l'odore che si sente. Guarda si lì. Sente che c'è iPad. Vergognatevi, una società italiana, la più grossa al mondo nell'Italia, dell'italianità, ha fatto uno strumento da utilizzare soprattutto per cercare cos'è che era il gatto muschiato sotto sì. Il letto. Per quello serve. Questa è la rubrichetta un la uomo rubrichetta. Un perché. Un uomo sì, un suo perché però. Un suo perché. Che cosa sta dicendo? Aspetta. Sto dicendo che l'Olivetti ha fatto l'Olipad. Ci mancava. Ma extra vergine. Devo andare in bagno. Devo sì, dire la verità. Sì. No, ma extra vergine, sì, è sì. Estremamente extra. C'è anche vergine. La versione Olipad di Ricino. Sì. No. C'è anche la versione di infatti dietro è su. Nero, stai attento. È un po' nero. Comunque io me ne ero accorto che questa Hunziker aveva sta cosa con un cerchietto rosso. Ho detto "Oh mio Dio". Esiste ancora? Chi? L'Olivetti. Esiste ancora, ma non l'avevamo stravenduta nei momenti d'oro migliori. Ma sai, le cose quando le lanci poi capiscono come sono, te le riportano. Avevo l'M24, cioè non è che pizza e fichi, avevo un hard disk da 2 megabyte che era grande quanto la ruota di scorta della macchina. No, invece questo aggeggetto sarà davvero carino. Diciamo che sarà un tablet con un bello schermetto, credo che sia un 10 pollici, una cosa del genere, con un bel processore Nvidia dual core Cortex A9. Fa proprio invidia questo, eh? Questo sì, questo fa veramente invidia. Quindi tanta roba, eh? Una bella macchinetta. Sembra una bella macchina. Wi-Fi, 3G, non lo so, quello non si sa ancora. Con Bluetooth. L'unica cosa è che ci sarà Android. L'unica cosa è che è si parla di, no, si parla di un app shop, diciamo, dedicato. E queste... beh, ma tutti lo stanno facendo. Non mi piace. Ma sarà compatibile con i prodotti del market? Sai perché lo stanno facendo? Sai perché lo stanno facendo? Perché ci fanno i soldi con la pubblicità. E poi perché mettono le versioni di Android customizzate, qualcosa, ah, beh, sì, che Google non permette l'accesso al market, perché non è fatto per i tablet. Lo mettono tutti, però non è fatto per i tablet. Quindi scusa, finché non manterrà l'accesso, cioè si manterrà questa cosa, non c'è accesso per i tablet al market, potranno tra virgolette sfruttare la situazione i produttori, però è quello che stanno facendo Google, ma tutti quelli che stanno facendo tablet, a meno che non hanno qualche accordo. Però Google, nel momento in cui dirà ok, io tiro fuori Honeycomb, la versione 3.0 Android, adesso c'è un market, per forza di cose uno deve poterci accedere, o sbaglio? Teoricamente. Non è detto, dipende da quanti soldi girano dietro, esatto. Vedremo, signori. Comunque, bisogna vedere se gli conviene tenere in piedi un... Comunque una bella macchinetta, 399 euro, in offerta 299 su Twitter. Ti spiegano come fare. Vai dal vicino, tira sul telefono, fai 128-732-493-008 asterisco. Ti risponderà una voce che ti dirà vai in via del Pero, ecco, numero 412. Perfetto. Citofona ad Annunziata Giacominelli in Esposito. Sì. E chiedigli l'iPad. L'iPad. A proposito di iPad, volevo creare una non una rubrichetta perché sarebbe eccessivo, un tutorial. Oh, attenzione! È arrivato il mio vicino. Il mio vicino che saluto. Ciao Alberto, grande. Ciao Alberto. L'Alberto, il mio vicino, ha riscoperto il piacere della lettura grazie all'iPad, perché lui fa fatica a vederci da vicino. Scusa. Questa non è una battuta. Scusa. Grazie all'iPad. No. Quanto ti pagano per fare una frase così? Per dire una frase. È vero. Sembra una frase commerciale. Non è vero. Beh, comunque, un tablet quasi. Io non sapevo che avesse l'iPad. Hanno detto, ho comprato un tablet, ci legge. E non perché ci vede da vicino. Perché lui non ci vede molto bene, quindi ingrandisce di brutto. No? Mi ha consigliato il tablet in mano con la tastiera dove vedevo la Q, la V, la E, l'RT. E basta. Perché aveva ingrandito anche la tastiera. Ho detto, come fai a usarlo? Ok. Niente, volevo solo dire a quelli della team, che saluto. Quando mettete nella scatoletta, cioè quando fate la micro SIM, sapete che la devono utilizzare con dei dispositivi del genere, mettetelo che devono cioè come server inserire ibox.team.it. Non è difficile, però ci sono persone che ci perdono magari 2, 3, 4, 5, 6, 7 giorni finché non vanno da vicino e chiedono come si fa a configurare la navigazione così. Cioè ti danno la scheda non configurata. Io capisco che adesso non è giusto stampare troppo perché roviniamo gli alberi, la natura, giusto preservare. Nessuna istruzione. Basta un pezzetto di carta con scritto ibox.team.it. Ho scoperto l'altro giorno che si può fare la carta con la cacca delle capre. Sì. Ma io l'ho vista fatta con la cacca dell'elefante. Magari ci possiamo fare anche i francobolli, già che ci siamo con quella carta. Sì, poi. Ecco perché ci aveva sto. No, ma è bello perché attaccano senza bisogno di leccarli. Quindi, signori, se avete un iPad, ricordatevi con team ibox.team.it. Salutiamo l'iPad, salutiamo la team e salutiamo anche voi che state ascoltando Opencast Alpha, puntata numero 10. Probabilmente siete in treno. No, forse siete al lavoro, forse ci state ascoltando su un'emittente radiofonica in replica, perché no? Forse piove, chi lo sa. E passiamo alla prossima news, se mi permettete. Attenzione. Di che cosa parliamo? Della Nintendo. Allora, ci dobbiamo un po' scusare forse con i nostri spettatori, perché non è che sono radio spettatori, non sono neanche telespettatori, sono spettatori, cioè ci aspettano le nostre cavolate. La cavolata di oggi è: c'è proprio niente da fare. Mi stavo scusando perché abbiamo parlato troppo spesso di Sony, di Microsoft. Un po' la Nintendo l'abbiamo lasciata lì. Nintendo in questo momento si sta ritagliando una buona fetta di mercato sui casual gamer, lo sappiamo, con la Wii, e forse è il momento in cui potrebbe uscirsene fuori con una nuova console. Diciamo che tra i tre contendenti lei è quella che potrebbe effettivamente di più ai margini, e allora cominciano a uscire indiscrezioni. Si parla del cosiddetto Project Café. Il Project Café, la macchinetta del caffè. Sono già tutti nervosi. Sì, tutti che parlano. Tutti nervosi, proprio nervosi. C'è hype. Questo sarebbe una nuova console di Nintendo, sicuramente con una potenza di calcolo maggiore, si parla di processore 3-core IBM, qui IBM è confermato come leader nel settore dei processori per console, una GPU della AMD della serie R700, chi più ne ha più ne metta, e più di 512 MB di RAM, me lo voglio ben augurare. Ma quale sarà secondo discrezioni la novità vera dietro a questo Wii? Che in realtà è un frullatore. Allora, alta definizione, vabbè, ce lo stavamo aspettando. Non è un frullatore, finisce sempre con ore. E forse è un decespugliatore. No, non è proprio quello. È sempre i party game, eh? Sempre party game, quelle robe lì un po'. Dimmi che cos'è, per favore. Cioè, tipo, vogliono fare. Adesso hanno fatto un nuovo gioco la Ubisoft, tipo il Twister, no? Cioè, tu sei. No, questo non è uno scherzo. È uscito questo gioco per la Wii. È un party game dove, tipo, controller in mano alla ragazza, controller in mano al ragazzo. Si gioca in quattro. A un certo punto, ragazza sali sul ragazzo. Cioè, però in un certo modo, capito? E si sta un po' avvinghiato, un po' un adult party, perché non sanno più come venderla. Ecco. Però quale sarà un gioco simile sul PC una che, volta? Che altre tipo news vi possiamo dare a proposito di questa Wii 2 potenziale, che dovrebbe essere un po' la novità vera? Si parla di un controller con schermo LCD touchscreen. Mi pare una struzza. A me mi pare che il controller del genere sui 200-250 euro, non so quanti se ne, cioè quanto party game diventa un party game da 1000 euro, cioè, capito? Insomma, cioè, non so, però, che party fai tu, però se già, cioè, non lo so, però io. se seguissero un po' la filosofia che era stata dalla Sega col Dreamcast, che aveva già fatto il modulo di memoria con l'LCD, che poi era una piccola console a sé stante, certo in bianco e nero ai tempi, giustamente, anche per quello che costa. Adesso io penso che uno schermetto non costi neanche tantissimo. Non parliamo magari di touch, che è eccessivo. Ma non è delicato, no? Potrebbe essere, però. Però ci sono delle applicazioni che potrebbero essere interessanti. Esempio, gioco in prima persona, sparo, faccio io. Io guardo sul mio pad la mappa, per esempio, la mappa di gioco, no? Piuttosto che potrei vedere. A me pare una strunzata. Cioè, tu dici le informazioni, robe così, è meglio metterle in alto a destra e in basso a sinistra. Mi sembra una cagata. Cioè, scusa, giochi a Duke Nukem Forever, che dovrebbe uscire. Sì, vabbè, ok. Fantascienza. Cioè, abbiamo delle cose, abbiamo, che ne so, delle informazioni in più, tipo You Wanna Dance? E che cosa Shake dice? It Baby? Yeah, yeah. Shake it. Benissimo, quindi questa Wii 2 sarà retrocompatibile con i giochi Wii e GameCube. Non sappiamo nulla, per ora è tutta pura speculazione. Vi abbiamo detto che forse. Quindi è soltanto aria fritta. Aria fritta, ma fritta bene. E se esce qualcosa, esce all'inizio 2012. Forse. Mentre gli altri sicuramente stanno guardando. Quando finirà il mondo? Ma insieme a Duke Nukem Forever. Ok. E, altre news, certo. Ma io parlerei in questo finalmente, momento. Qualcuno no, di serio. Parlerei in questo momento del. Serio. Della mossa sorpresa che Oracle ha fatto in questi giorni. Attenzione. Gioco delle tre carte. Più o meno sì. Dove sta? Attenzione. È qua. Dov'è il codice sorgente? Dov'è il codice sorgente? Attenzione, 1, 2, perché Oracle ha deciso così, mossa sorpresa, di ritrasformare OpenOffice.org in un progetto gestito interamente dalla comunità e di smettere di offrire il pacchetto commerciale. No, l'avevo comprato. Ma sei sicuro? Eri solo te ora. Sono andato dal macellaio e ho detto: Carlo, che me fai? Due etti? Mi fai che faccio? Sì. E poi mi fai un pacchetto di pacchetto applicativo di videoscrittura, di calcolo. E lui mi ha proposto subito questo. Cioè, prezzo buono. E guarda, ci ho messo anche un database. Sì, guarda, il database lascia, lo tengo. Lascia però, sto database. Ma SQL e altra roba. Comunque, ma c'è già il fork anche di quelli. Sì, non è lì. Sì. Forkland? Sì, hanno comunque perché hanno detto. Fortran. Alla fine, quelli di Oracle hanno detto Fortran. Che l'inizio di questa vendita commerciale non è andata come speravano. Per cui si terranno a pagamento le loro versioni di MySQL e qualcos'altro. Ma OpenOffice, no, è inutile. Per la serie, vorrebbero forse dare fastidio a quelli di LibreOffice? No, in realtà secondo me l'hanno fatto proprio perché tutti quelli che stavano sviluppando OpenOffice sono passati a LibreOffice. Ma e io non avevano... ci tornerei più. No, ma infatti anche fossi in loro io non tornerei indietro, neanche per sogno. Adesso si peccano l'ultima versione del codice come allora, hanno già fatto. Allora, io ho notato che il 12 aprile è uscita la nuova beta di OpenOffice, la 3.4, se volete andarvela a scaricare, iniziate a vedere cosa c'è. Il 15 aprile è uscita l'altra beta, la LibreOffice 3.4. Quindi diciamo che fanno un cut, grep, anzi no, poi il sed. Fanno un sed del nome. Il nome e via. In realtà qualche... Siamo pronti. In realtà qualche differenza c'è. No. Poche ancora, perché il codice è ancora lo stesso. È chiaro che prendono da una parte e dall'altra. Solo che secondo me non ha nessun senso tornare open indietro, office sotto Oracle ormai. Non peraltro, a me piace sto libro perché avevano detto che era la storia era francese, però io lo preferisco un po' più cubano, sai, con rum ci sta dentro molto meglio. Poi quindi, è un colore lime. Scusi, mi fa un video scrittura e rum, per favore. Vedi, vuole un libro office. Mica pizza. Sì, un Cuba Libre, un LibreOffice, poi mi dai anche un Martini Soda shakerato con ghiaccio, ciliegina. Ma lì ci vuole poca il sigaro. Però, lì ci vuole il sigaro, per forza. Ci vuole la ciliegina poca e con anche una fettina di limone. Grazie. E a proposito di limone, parliamo di limone. Cioè, adesso voglio vedere dove vuole arrivare. Parliamo del progetto Limone. Allora, il progetto Limone è un progetto che vuole far avvicinare le ragazze al mondo del open source. Già ci hanno dato dei sessisti. Cioè, io mi dissocio. Anch'io mi dissocio da me stesso. You wanna dance? Yeah. Comunque, baby, il discorso delle spogliarelliste era una cosa fittizia. Allora, voi dovete capire che questa diciamo sera... Diciamo che orecchie per intendere intendere. Noi abbiamo avuto come ospiti dei veri e propri, permettetemi, passatemi questo termine, sobillatori. perché sì, cioè mi fanno degli interventi e poi finiscono sempre là. Esatto, lanciano l'intervento e nascondono il foglio. Noi invece comunque... siamo, sì, un po'. Dopo. Dopo. Ragazze, scusa, no, un attimo perché Fabio, ragazze, dopo, per il Project Limone sì, parliamo dopo, grazie. No, a proposito di grandi uscite, a parte questa grande uscita di Oracle, nel frattempo è stata rilasciata la versione 3 di GNOME. Torna nella torta? La spogliarellista, non l'hai vista? Ah, è vero. Torta era... nella torta. Ma scusa, era quel film con Steven Seagal che lei era veramente gnocca. Sì, e lui sulla nave, che era un cuoco, e loro dicono: ma chi è questo cuoco? Steven Seagal. E lui c'aveva, tipo, io me lo immagino quando ha portato il curriculum per lavorare sulla nave, cioè pluriassassino, Vietnam, adesso soltanto Cambogia. Grande abilità coi coltelli. Love boot. Va bene. Comunque, stavo dicendo che nel frattempo uomo dalle cuffie grandi uomo di cuffie grandi, parlaci, cosa devi dire? No, è vero, perché uomo di cuffie a left Fabio su sinistra, ha delle cuffie su fenomenali, ci tiene sotto controllo, Fabio. Ho portato le cuffie nuove, che cazzo volete? Ah, le hai comprate? No, non le ho comprate. Le hai comprate in ufficio? Volevo comprare un mixer. No, ha comprato, Fabio, le cuffie. Non ho comprato niente. Le hai comprate in ufficio quelle cuffie? Sì, le ho comprate in ufficio. Bene. Gli ho chiesto di comprare in affitto, diciamo. Gli ho chiesto di comprare le candeline per la torta, per la spogliarellista. Ha detto di no. No, perché poi si scotta la spogliarellista. Ah, la spogliarellista è roba. Comunque io che stavo cercando di dare una linea un po' un attimo intelligente, ma ormai è il degenero. Ormai è un elettrocardiogramma. È piatto proprio. No, cioè vai su e giù. No, è proprio bassi. Piatto. Dai, piatto, è il tuo momento. Dai, parla. No, volevo parlare delle uscite, ma continuamente esci, mi allora, interrompete. Esci. Ecco, andate avanti voi. Qual è questa nuova uscita? Dai. Che è uscito GNOME 3? Ah. Ha paura GNOME 3. Con la GNOME cioè Shell. Hanno fatto un salto così. GNOME 3. Salto. Erano la 2.26 l'ultima volta che l'ho visto io. E beh, non è che lì devi far tutti i numeri, Esatto. Quindi hanno fatto una roba importante. Hanno riscritto un sacco di cose. E com'è? È molto pregio. L'ho installato pregio. Sul mio sistema a casa, è molto pregio. È molto pregio, rende. Rende assai. Ma c'è rende già su Arc? O l'hai su Arc è in testing, bisogna abilitare il testing. Stiamo aspettando che lo passano in extra. Allora aspetteremo anche quando arriva in extra, automaticamente, aggiornamento a GNOME 3 per tutti. GNOME 3. E beh, poi sono uscite altre belle cosine. Le caratteristiche principali. Beh, caratteristiche principali, la caratteristica principale principe. Ha cambiato l'icona. A parte quello? Oh cacchio. Hanno inserito la GNOME Shell, la nuova interfaccia grafica di GNOME, che si appoggia all'OpenGL e al compositing per mostrare, fare effetti grafici, un sacco di belle perché cosine. Perché ti tocchi il capezzolo? No, allora io sto toccando una parte di felpa. Poi sì, le vostre interpretazioni casualmente è esattamente sopra il capezzolo. Che poi io abbia un braccio dentro il porta cioè il porta braccia, è un porta braccia. Che cosa serve in una felpa avere questa parte cucita davanti? È un porta braccia, penso, no? È un portamani e un porta braccia. Quindi noi eravamo partiti bene. Io stavo facendo una simulazione del compositing della shell di GNOME 3.0 che consigliamo assolutamente a tutti, e la vedrete prossimamente nelle migliori distribuzioni. Ma io la posso installare su Windows anche a casa vostra? No. Okay, okay. Come la provo? No. Scarichi una bella live. Disco live, fai il boot del disco. Sì. Disco live. Esatto. Fatti una chiavetta USB, perché sennò col disco ci metti una vita. Sì, meglio. Io direi che, visto che ormai abbiamo raggiunto i ormai 35 minuti di puntata, possiamo andare verso il finale di questa spumeggiante decima puntata di Opencast e finire con una rubrica ormai diventata un classico. Frasi a caso, conduce Loris. Attenzione. Frasi a caso. Mettiamoci per un attimo nei panni di un amministratore di sistema alle prese con la gestione di un sistema GNU Linux multiutente. Perfetto. Seconda frase a caso. Salve a tutta la redazione. Questa era la frase. Sì. Io proverei anche con l'altra sorgente dati, direi. Io, frase a caso. Io proverei con questa. Vai con questa. Vai con frase. Eventuali errori forniranno indicazioni sulle dipendenze mancanti. Perfetto. Oggi l'archivio di Al Jazeera è diventato un'istituzione. Questa è una frase importante. Una frase importante, direi. Perché Al Jazeera... Attenzione. Ecco. Per chi ha spazio. Questo era un titolo. È interessante, molto interessante. Vabbè. Direi che... Facebook e Twitter stanno diventando sempre più importanti. Direi che la cosa sta degenerando. Dai, l'ultima. L'ultima frase. È semplicemente servizio pubblico. Ok. Sta degenerando. Adesso, aspetta. L'ultima frase da parte sua e poi direi di chiudere qua perché sennò... Vediamo. Potremmo iniziare con questa. Ognuna di queste ci verrà più o meno pagata a seconda della difficoltà e della pericolosità che comporta. E non sta parlando delle frasi. Il valore verrà mostrato a video. Che sto... Anche delle puntate, io ero quasi preso bene, ognuna di queste ci verrà pagate. Infatti, magari. Vi ricordo che questa è la puntata numero 10 e siamo a 100 euro che abbiamo lasciato qua. Sì. Ah, ecco. Abbiamo trasmesso Frasi a caso. Ha condotto in studio Loris col supporto di Coso. Ciao. Direi che a questo punto possiamo salutare e chiudere qui. Abbiamo raggiunto il minutaggio che ci siamo prefissati anche questa settimana. È stato un piacere essere con voi ben 10 puntate, per chi ancora ci segue, non penso che siano ancora in tanti. Loris continua a Ciao, cercare mamma. Frasi a caso, direi. Saluti da mamma? È lei che mi ascolta. Ah, solo lei. Quelle creature erano speciali, lo capì subito. Bisognerebbe abbatterlo. Sì, certo. È meglio abbatterlo. Noi pensiamo a fermare la follia dilagante e voi vedete di continuare con la vostra giornata. E spendete e spendete. L'orto migliora il microclima urbano e mitiga gli effetti del rumore. Avete ascoltato Opencast Alpha, il podcast tecnologico disimpegnato del GL Como. Tutti i link e le puntate su www.gl-como.it. Open cascalta. Sparascazzola? Tre volte a destra. Sì.